Pronto? Pronto? No, non c'è cam... Provo a spostarmi. Non si muova. Stia fermo, sì. Ma stia fermo, le ho detto. No, provo a spostarmi io, Mi sente adesso? Ah, sì. Ah, è lei. Sì. No, è che sono in strada. Sono alla fermata dell'autobus. Sarò in ufficio tra non molto, qualche minuto. Sì, prendo l'autobus. Come? Ah, il suo stipendio. Ma guarda, no, ma ne abbiamo parlato poco fa. No, no, non gridi, non sono sordo, io adesso sento. No, non è colpa sua, dicevo il... No, di nuovo. Guardi, io... Mi senti adesso? Sto andando in ufficio, risolveremo lì la nostra situazione. Avrà i suoi soldi. Sì, prenda l'indirizzo. Ma come non ha una penna? Se la cerchi, io non posso stare al telefono. Corso Giulio Cesare 183. Sì, 183. 183, 183, sì. L'aspetto un sì, l'aspetto, mi lasci andare. Ma guardi, vuole farmi impazzire. Sì, ci vediamo in ufficio, avrà i suoi soldi. Sì, buongiorno, buongiorno. Scusi, ha una... No. No, cosa? No, non ce l'ho. Ma se non le ho nemmeno chiesto cosa... Non mi ha nemmeno chiesto cosa. Cosa mi serve se mi fa finire di parlare? Beh, perché siete tutti uguali voi, tutti uguali. Sì, le servono i soldi per il biglietto dell'autobus. Soldi, per no. Il panino, allora. No. Ma allora vuole una sigaretta, magari? Sì, voglio una sigaretta. Ah, una sigaretta. Una sigaretta come? Beh, una sigaretta. Che marca preferisce? Guardi, per me è indifferente, però... Guarda che scemo! Adesso si sceglie pure la marca. Beh, si cerchi un tabacchino, io non fumo. Ah, lei non fuma. Però magari ha da accendere. Ma se ho appena detto che non fumo... Senta, io non ho neanche tempo da perdere. Ah, lei non ha tempo da perdere. Allora che fa qui? Beh, aspetto l'autobus. Ah, perché qui fermano autobus. Eh sì, è una fermata. Ah, è una fermata? Sì. E che autobus passano? Il 23, il 38 e il 16 bis, sì. E il 138 barrato. Ah, anche il 138. E dove vanno? Il 17 va verso Corso Giulio Cesare. Sì. Mentre dall'altra parte invece... Ascolti, ma perché non si cerca un vigile? Un vigile? Perché un vigile? Per le informazioni. No, quali informazioni? Io le ho chiesto semplicemente una sigaretta. E io che l'ho detto? Che non fumo, che non ho tempo da perdere. Tempo da perdere? No. Sì. Ecco, non ho tempo da perdere. Sa che le dico? Io me ne vado a piedi. No. Buon viaggio. No, scusi, ma dove va? Aspetti, aspetti. Buon viaggio, guardi che io me ne intendo di viaggi, sa? Ti ricordi? Avevi appena 18 anni. Eri seduto sul vagone di quel treno e incominciavi a sentirti portato via. La grigia città natale per un attimo tutta dipinta sul finestrino di quel treno, sì. Le case grigie tutte uguali, le strade consumate, te le ricordi? E il tuo amico alla stazione? Mi raccomando, appena arrivi chiamami. Non ti preoccupare, appena arrivo ti chiamo e ti racconto tutto. E tua madre? Te la ricordi, tua madre? E gli occhi pieni di nebbia, le mani piccole, calde, accarezzavano in maniera meticolosa e nevrotica il tuo cappotto, facendo cadere la polvere a terra. Beh, era la prima volta che la lasciavi da sola, era la prima volta che lasciavi la grigia città natale, tutta uguale. Finalmente vivo, non più immobile, questo pensavi? Sì, finalmente sto per raggiungere quella che è la mia meta, la mia destinazione. Finalmente vivo, non più immobile, sto per lasciare questa grigia città di merda. Sto per raggiungere la grande metropoli. Sì, qui mi realizzerò, qui diventerò finalmente qualcuno. La mia meta, la mia destinazione. Perché non hai capito subito, piccolo folle viaggiatore? Perché non hai guardato la ruga di infelicità che segnava il volto dei tuoi compagni di viaggio? Non esiste una meta, una destinazione. Bisogna sempre essere pronti a ripartire da capo ogni volta. Un uomo non ha che una sola cosa, un punto di partenza, la propria casa. Quadro primo. La voce di Michele Arcuri. Arcuri è seduto alla scrivania. Sembra parlare come fosse sotto interrogatorio. Dall'altra parte c'è uno strano tipo. Si direbbe un viaggiatore. Ha due grandi valigie in mano. Beh, sanno solo chiedere soldi. ed invece dovrebbero ringraziare Dio per l'opportunità che la cooperativa sta offrendo loro. La verità è che sono dei morti di fame. Ma sì, questo posso anche averglielo detto. Morto di fame. Lui mi è piombato in ufficio gridando. Ho avuto paura mi colpisse, forse ho perso la calma, sì, per un attimo. Non ricordo con precisione. Lui è entrato, sì, sì, questo sì. Aveva un oggetto in mano. Non so, non ne sono sicuro. Devo essermi alzato all'improvviso. Beh, quello ce l'avevo davanti, urlava. Ho provato a difendermi. Voglio dire, per carità, nessun fraintendimento. Io so come vanno queste cose. Cominci a parlare e poi dici cose che non vuoi dire, cose che non stanno né in cielo né in terra. Ho una certa esperienza io. E li conosco i tribunali, conosco i giudici, gli avvocati. Vorrei che sia subito chiaro. Senza timore d'essere smentito, dico che non sono mai stato razzista, anzi. Il problema è che questi stranieri dicono d'essere infermieri ed hanno effettivamente documenti rilasciati dai paesi d'origine che lo certificano, ma troppo spesso non conoscono il mestiere, non conoscono la lingua, non hanno mai messo piede in un ospedale e se lo hanno fatto nei loro paesi. Beh, quegli ospedali lì, diciamo, sì, tutti noi abbiamo più o meno un'idea precisa di quello che sono. Non per questo dobbiamo dirci razzisti, o peggio ancora sfruttatori di mano d'opera addirittura, ma andiamo, un po' di realismo. Ok, siamo d'accordo. Niente razzismo, ma realismo. So bene che questi infermieri vengono qui in Italia perché ne abbiamo evidente necessità. Le carenze di personale infermieristico sono drammatiche. So quindi che c'è un obbligo da parte di tutti noi intermediari a tenere la situazione sotto controllo, sotto ogni punto di vista. Il razzismo, lo sfruttamento, ma andiamo, non ha nulla a che vedere con questa vicenda. Che posso assicurarvi riguarda l'assistenza ai malati, la professionalità e, perché no, anche una buona dose di umanità. E difatti noi insegniamo loro un lavoro, sì, certo, noi gli offriamo una professione. Beh, sì, ma con salari bassi. Beh, comunque uguali a quelli dei lavoratori italiani. Appunto, bassi come i loro. Senta, sì, dico a lei con le valigie. È da qualche tempo che la osservo, sa? Com'è che si chiama lei? Abdel. Abdel, sì. Abdel, sì. Senta, Abdel, voglio dirle, l'intermediazione è legittima. A me sembra che voi traffichiate lavoratori. No, io dico l'intermediazione. Non possiamo ammalarci. Ascolti. Glielo ripeto, l'intermediazione è legittima, Abdel. Le ferie non ci vengono pagate. Oh, insomma. Ora metta a terra quelle valigie e mi ascolti bene. Ho intenzione di spiegarle come funzionano le cose qui da noi, perché lei non è un italiano, a quanto pare, vero? No. Ascolti. Grazie all'intermediazione, gli infermieri stranieri conquistano l'opportunità di vivere una vita dignitosa nel nostro paese, altro che razzismo. E poi, grazie alle nostre agenzie, gli ospedali hanno personale a sufficienza, senza il rischio della bancarotta. Questo si chiama senso dello Stato. Senso dello Stato. Certo, senso dello Stato. Senso dello Stato. Altro che ricorso a facili guadagni. Eh sì, perché questi infermieri costano molto meno alle aziende sanitarie. Le aziende lo sanno bene. Pagano quasi la metà per lavoratori stranieri con la stessa qualifica di quelli italiani. Insomma, lei, mio caro giovanotto con le valigie in mano, come anche un'infermiera ucraina o argentina o filippina, insomma, ognuno di voi è più conveniente di una giovane infermiera italiana laureata nelle nostre università. Costate meno, Abdel. E così le aziende evitano il fallimento. Questa è la realtà. Ci piaccia o no, questa è la direzione verso cui tutti noi stiamo andando. E poi io voglio precisarle, casomai non avesse capito, che il nostro governo... Il governo? Guardi che il governo è un organo complesso, sa? È costituito dal Presidente del Consiglio, dai ministri e dal Consiglio dei Ministri, il cui compito è quello di... Sì, ecco appunto, sì, il governo. Prevenzione delle forme di esclusione sociale. Certo, il governo previene, sì, il governo, sì, fa divieto... Divieto assoluto di qualsivoglia indagine sui lavoratori, divieto di trattamento di dati, ovvero di preselezione dei lavoratori in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso o al sesso. Andiamo, sì. Abdel, addirittura, non esageri, anche al sesso. Come no, sì. E all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, di famiglia o di gravidanza. È davvero sublime. Regole, regole, regole. Lei, giovanotto, è sulla strada giusta. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale svolgono vigilanza e controllo sull'attività di soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo. efficienza e trasparenza del mercato con più decreti legislativi sino all'entrata in vigore della somministrazione di lavoro in materia di occupabilità. Disciplina e obiettivi, ma certo è il Ministero che garantisce il sistema. Avevate chiesto snellimento e semplificazione, mi pare, rispetto delle competenze. È per questo che si è proceduto all'abrogazione di tutte le norme incompatibili, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, numero 264, fermo restando... Ma fermo restando il regime di autorizzazione e accreditamento per gli operatori privati, ai sensi di quanto disposto dalla lettera. La smetta ora. Lei ha evidenti segni di squilibrio mentale, giovanotto. Prenda le sue valigie e vada via di qui. Presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è istituito un comitato di monitoraggio composto dalle associazioni di categoria e dei rappresentanti degli ordini e colleghi. Non mi interessa, glielo ripeto. Lei è nel mio ufficio, sa? Ma è la Costituzione. È venuto qui per parlarmi, ma sembra che voglia fare un comizio adesso. No, insomma, lei comizio. La smetta, no, giovanotto, cerchi di calmarsi. Lei è uno squilibrato. È il testo della qualcuno legge. Mi dia una mano lì fuori. Il testo della legge chi ha fatto entrare questo pazzo nel mio 2001, ufficio? Basta! 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, numero 248. Il testo dell'articolo 16,5 della citata legge numero 196 del 1997. Il testo dell'articolo 1,2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165. Il testo dell'articolo 17 della citata legge. Quadro secondo. Presentazione della storia di Abdel. Questa è una storia di recente, di straordinaria precarietà. Una storia che inizia quasi per scherzo. Una storia che, almeno in principio, può sembrare incredibilmente grottesca. Ma poi alla fine? Una storia con un epilogo tragico. Incredibilmente tragico. Questa è una storia incredibile. Ma vera. 12 dicembre 2005, Torino, Italia del Nord. Abdel Rahim Belgaid, marocchino di 44 anni, vive da molto tempo qui in Piemonte, dove si è diplomato alla scuola infermieri dell'ospedale torinese Maria Vittoria e fino a qualche tempo fa lavorava come infermiere per conto della cooperativa Vita Serena nell'azienda ospedaliera torinese denominata Le Molinette. La cooperativa Vita Serena è un'agenzia di intermediazione che recluta in massa infermieri stranieri disposti a lavorare con retribuzioni modeste. La sua sede è a Torino in corso Giulio Cesare 183. Il suo presidente è Luca Giovannone. Questo signore ha dichiarato nell'anno passato un fatturato di appena 15 milioni di euro. Abdel Rahim Belgaid, quale cittadino straniero, benché formatosi in Italia dove vive da 15 anni, non può accedere ai concorsi per infermieri. E per lavorare deve ricorrere all'intermediazione, deve ricorrere al nostro Luca Giovannone. Abdel Rahim Belgaid è finito in rianimazione e poi nell'unità spinale del CTO di Torino. Rimarrà paralizzato per sempre per aver osato chiedere il pagamento del suo stipendio arretrato di 3 mesi al responsabile della cooperativa per cui lavorava. Un vecchio caposala in pensione, non nuovo a fatti di violenza in corsia. C'è stato un alterco tra Abdel e questo responsabile che si chiama Michele Arcuri, ora indagato per lesioni gravissime, che si difende dicendo che Abdel ha fatto tutto da solo, sbilanciandosi nel tentativo di colpirlo con un pugno e procurandosi la lesione spinale, battendo contro lo spigolo del bancone della segreteria. La sveglia? Cazzo, sono già le 5. 2 minuti ancora e poi Lavo i denti. No, lo spazzolino è caduto dietro. Un quarto d'ora in bagno e 10 minuti per la colazione. Autobus. Se faccio tardi, quelli della cooperativa... No, Abdel. Nessun ritardo. Nessun ritardo. Fuori è buio pesto. Mi sembra che stia piovendo. Ho il freddo nelle ossa. Devo assolutamente fumare una sigaretta. Il governo è delegato ad adottare disposizioni volte alla disciplina delle tipologie di lavoro chiamata temporaneo, coordinato, continuativo, occasionale, accessorio, bla bla bla bla. Il governo dovrebbe fare qualcosa per questo freddo piuttosto. La porta va chiusa a chiave, doppia mandata a ricordare, consiglio di mio padre, chiudere, chiudo a chiave. Nessun rumore per le scale. Nessun rumore, Abdel. La signora del piano terra, 300 metri, di corsa, fermata dell'autobus, sarà già passato? No, eccolo, lì in fondo. Salgo, mi siedo. Dormo un po'. Il governo è delegato ad adottare disposizioni volte al riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di disponibilità, bla bla bla bla. Quasi arrivati. Apro gli occhi. L'autobus si ferma. 300 metri ancora a piedi. L'ospedale è lì in fondo. Entro che è notte ed esco che è notte. Appena ho un giorno libero però vado in cooperativa. Ricordare, chiedere numero autobus, direzione Corso Giulio Cesare, numero 183. Ricordare anche data d'assunzione e periodo di mancato pagamento, 3 mesi. Un bar a destra, prendo un caffè, no, è tardi, devo andare al lavoro. Il governo è delegato ad adottare le tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori che bla bla bla bla. Ricordare, tesserino, dov'è? In tasca? Nella giacca? Nella tasca dei pantaloni? Nella tasca dei pantaloni, dietro. Timbratura, ascensore, primo piano. Buongiorno, dottore, salve, buongiorno. Tanto non risponde nessuno. Ricordare mio padre, salutare sempre, buona educazione. Io rispondo sempre, saluto sempre, e buona educazione. Sì, è buona educazione. Il governo è delegato ad adottare un adeguato sistema. Ora sta esagerando, giovanotto. Il governo non può tutto. Un adeguato sistema sanzionatorio. Sì, va bene, ma ora si calmi, eh. Cosa ha, giovanotto? No. Non sta bene? Ecco, l'aiuto. Prenda le sue valigie, forza. Un sistema con ispezioni perché siano osservati gli obblighi previdenziali, perché siano osservati, sì, il trattamento economico... Sì, ma dico, calma adesso. È tutto finito. Quadro terzo. La voce di Abdel. Mi chiamo Abdel. Abdel Rahim Belgaid. Sono nato in Marocco. Sono arrivato in Italia 15 anni fa. Ho frequentato la scuola per infermieri all'ospedale Maria Vittoria di Torino. A causa di una legge dello Stato italiano, non ho potuto accedere a concorsi pubblici per lavorare e mi sono dovuto rivolgere ad un'agenzia che si chiama Vita Serena. Io so che se avessi fatto un regolare concorso pubblico, un'ora del mio lavoro costerebbe all'azienda sanitaria molto di più di quello che invece paga la cooperativa. Era per avere quei pochi soldi che mi spettavano che quella mattina andai dal signor Arcuri. Erano 3 mesi che non pagavano ed io non sapevo come fare per vivere. Lui cominciò subito ad insultarmi. Oh, ma senti, non dica stupidaggini. Mi disse che sapevamo solo chiedere soldi ed invece dovevamo ringraziare il cielo per l'opportunità che la cooperativa ci stava dando, a noi morti di fame. Ma che cosa sta dicendo? Era per via delle sue valigie. Alludevo al fatto che lei veniva appunto da lontano e che... Era pieno di rabbia. Bugiardo. Se non la smette io... Mi fece capire che i soldi non li avrei visti almeno per il momento. Gli dissi che non sarei uscito di lì fino a che non avrei avuto quanto mi spettava. Accadde allora... Ah, sentiamo. E cosa accadde? Cos'è che accadde? Accadde senza che io potessi aspettarmelo. Cominciò a colpirmi. Io? Ma come si permette? Io la querelo per diffamazione, sa? Caddi a terra, sentì un violentissimo dolore alla schiena. Lei è pazzo! Poi nulla. Lui continuava a picchiarmi, ma non sentivo più i suoi colpi sul mio corpo. Avevo gli occhi chiusi, anche le sue urla mi sembravano lontane. Forse mi addormentai, ho persi i sensi. Ma a questo punto esigo che venga convocato il mio avvocato, qui. Ho subito 3 interventi alla schiena. I medici sono gentili, anche gli infermieri, i miei colleghi. Il primario mi ha detto che sono fortunato. Fortunato perché conserverò l'uso delle braccia. Sono venuti in ospedale giudici ed avvocati ad interrogarmi. Il signor Arcuri dice che sono accidentalmente caduto a terra, battendo contro uno spigolo del bancone della segreteria. Sì, nel tentativo di sferrargli un pugno. Il signor Arcuri è un bugiardo. Volevo solo i miei soldi, nient'altro. Ma come si permette? Come si permette? Non pronunci il mio nome, sa? Potrebbe pentirsene amaramente. È un bugiardo. Io la mando in galera. Quadro quarto. La fine di Abdel. La legge del precedente governo di centrodestra, la cosiddetta legge Bossi-Fini, consente ad infermieri, sportivi e ballerine di non essere annoverati nelle quote annuali d'ingresso di lavoratori stranieri. La cooperativa Vita Serena conserva l'appalto di Torino all'ospedale Le Molinette, che è l'ospedale a più alta densità di lavoratori stranieri in Italia. L'ospedale Le Molinette è anche al terzo posto per le sue dimensioni. Il presidente della cooperativa Vita Serena, Luca Giovandone, ha immediatamente preso le distanze dai fatti e dichiara che nel giorno dell'aggressione di Abdel, lui non era a Torino. Il responsabile Michele Arcuri è tuttora indagato ed è stato per questo dimissionato dalla cooperativa Vita Serena. Le rappresentanze sindacati aziendali dell'ASL 4 di Torino si sono organizzate per devolvere un'ora di lavoro da far confluire in un fondo di solidarietà a favore di Abdel Rahim Belgaid. Abdel Rahim Belgaid, infermiere marocchino, ha perso per sempre l'uso delle gambe. Distrutto. Anche oggi, beh, come ieri d'altronde. 15 minuti alle 3. Cazzo, è già pomeriggio, un'ora ed è notte. Buonasera, salve. Ma chi vuoi che mi risponda? Ricordare mio padre, salutare sempre, anche se non rispondono, è buona educazione, sì. E poi pericolo, licenziamento, calmo, calmo. Timbratura, ascensore, piano terra. Tesserino, dov'è? In tasca, nella giacca, nella tasca dei pantaloni, dietro, è sempre lì. Finalmente fuori. Che freddo, fin dentro le ossa. È buio. Come stamattina, solo che adesso è notte. Un bar a sinistra, prendo un caffè? Sì. Un caffè, per favore, grazie. Ho male allo stomaco, sono digiuno da ieri, cazzo, il caffè brucia. Mi verrà una maledetta gastrite. Fermata. Tanta gente che aspetta, autobus. Lo stomaco fa male. Cambio alla prossima, coincidenza con il numero 38, percorso Giulio Cesare, numero 183. Sì, vado oggi alla cooperativa. Non ho un giorno libero fino alla fine del mese. Ho bisogno dei soldi che mi devono. 3 mensilità, cazzo, sono tanti soldi. Mi ascolteranno? Torni domani, come la volta scorsa. Ma io non so proprio come tirare avanti. Ringrazi il cielo per quello che la cooperativa fa per la gente come lei. La gente come me? Scendo. Coincidenza numero 38. Mezz'ora ancora e sono al 183 di Corso Giulio Cesare. Ricordare mio padre, tranquillo. Pericolo, licenziamento. Già arrivati? Devo essermi appisolato. 1 chilometro ancora, a piedi. Il 183 è dall'altro lato della strada. Cammino, lentamente, sono stanco. Devo evitare il caffè quando ho lo stomaco vuoto. Mi verrà una maledetta gastrite. Guarda quello. Ma cos'ha? Esce dal 183, sì, corso Giulio Cesare 183. Cazzo, ho ridotto proprio male. Devono averlo ammazzato di botte. Permesso, permesso, permesso, fatemi passare, sono un infermiere. Mamma mia. Avanti, cazzo, l'hanno ammazzato di botte. Guarda com'è ridotto, poveraccio. Ehi, un momento, ma lui è. Io volevo solo i miei soldi, nient'altro. Volevo solo i miei soldi, nient'altro. Sì, dai, forza, su. Sì, dai. Beh, tirati su, prendi la valigia, andiamo. Andiamo, ma andiamo dove? Di là. Di là? E perché di là? Non lo so perché andiamo di là. No, guarda, hai una sigaretta? No, non ho sigarette. Io non ho mai fumato in vita mia, dai, andiamo. Aspetta, ecco, ce l'ho io. Hai da accendere? Da accendere? Sì, sì, ecco, accendi pure, tieni. No, non ho più voglia di fumare. Ma che fa? Mi prendi per il culo? No, no, è che è strano. Ma che cosa è strano? Beh, è strano, tu non fumi sigarette ma hai da accendere. Ah, è vero, è strano. Forse dovrei buttare via i fanditi. Sì, forse dovresti fare così. O dovrei iniziare a fumare sigarette, anche, come te. Sì, sì, potresti fare come me. Ci penserò, allora. Di un po', che se, cos'è che volevi sapere prima? Ma quando? Quando, sì, quando. Prima io ti ho tirato su, ti ho dato la valigia, il cappello e ti ho detto di andare. Tu mi hai chiesto dove, ah, no? Sì, sì, ti ho chiesto dove, dove. Ecco, e io ti rispondo. E andiamo di là, sì, andiamo di là. Ma non chiedermi perché, io non lo so perché andiamo di là. Ma no, si no, va di là non e non basta. Ti preoccupare, figurati, io non chiedo nulla. Per me è ok. Ok. Cosa è ok? Ok, nel senso ok, andiamo. Ah, va bene, andiamo.